i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Trasmettitori da 70 anni, di Paola Pucci. Nell'era del dominio cibernetico e delle guerre che cambiano volto, l'arma delle trasmissioni è destinata ad assumere un ruolo preponderante. I trasmettitori festeggiano il 70° anniversario, con la consapevolezza di un futuro che li porterà ad affrontare sfide in crescendo. Le celebrazioni si sono svolte a Roma, presso la sede del Comando Trasmissioni, il 20 giugno. Una data simbolicamente legata alla seconda battaglia del Piave o battaglia del Solstizio, di cui ricorrono quest'anno i 105 anni. Infatti, proprio in quell'evento, l'arma delle trasmissioni, all'epoca specialità collegamenti dell'arma del genio, contribuì in maniera determinante con i propri telegrafisti, marconisti e radiotelegrafisti a respingere l'avanzata delle truppe austro-ungariche, ponendo le basi per il trionfo di Vittorio Veneto. La cerimonia per l'anniversario ha visto la partecipazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Corpo d'Armata Pietro Serino, del comandante delle forze operative terrestri di supporto, generale Corpo d'Armata Massimo Scala, del comandante delle trasmissioni, generale Davide Pilatti, della dottoressa Ilaria Diana Paresce, pronipote del premio Nobel per la fisica Guglielmo Marconi e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Corpo d'Armata Pietro Serino, nel suo saluto augurale ha sottolineato: «Sin dalle origini i trasmettitori hanno operato con rara perizia e assoluta fedeltà alle istituzioni, assicurando collegamenti sicuri, veloci e durevoli in tutte le aree del mondo in cui sono stati chiamati a intervenire». L'arma delle trasmissioni di oggi è espressione di elevatissime competenze tecniche e professionali, orientata a operare nei moderni scenari in ottica multidominio anche grazie a un continuo sviluppo di nuove capacità nel dominio cibernetico, tra cui l'Information Technology e le Cyber Electromagnetic Activities. L'arma delle trasmissioni garantisce un costante supporto a tutte le unità dell'esercito, in patria e fuori dal territorio nazionale, in uno scenario caratterizzato da una continua e rapidissima evoluzione tecnologica e con una crescente necessità di sicurezza nella gestione e trasmissione dei dati, collocandosi a pieno titolo tra le componenti più moderne e tecnologiche della Forza Armata. La cerimonia stessa è stata caratterizzata da una combinazione tra tradizione e innovazione, in armonia con le peculiarità delle trasmissioni. Durante la cerimonia, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha conferito all'arma delle trasmissioni la medaglia d'argento al valor dell'Esercito per aver assicurato il proprio qualificato ed esemplare contributo, garantendo sovente, in condizioni di estrema difficoltà, l'indispensabile e fondamentale supporto alle unità schierate in occasioni di gravissime calamità, nonché ai contingenti militari impiegati in rischiosi scenari di crisi, dal 1998 al 2022. La nuova frontiera cyber, legata all'intelligenza artificiale, era testimoniata da un drone e due robottini a quattro zampe, adatti alle rilevazioni del territorio. Il drone, seguendo un percorso preimpostato, segue autonomamente quel percorso e riconosce il target geolocalizzandolo. A terra, il robot quadrupede svolge il ruolo di esplorazione e controllo locale, riconoscendo anch'esso il proprio target. Il quadrupede è anche dotato di un radar LIDAR, in grado di consentire un'esplorazione autonoma all'interno di strutture, permettendone la mappatura. La celebrazione per il 70° anniversario fa riferimento alla data del 16 maggio 1953, quando si verificò la scissione dall'arma del genio con la ridenominazione della specialità Genio Collegamenti in specialità autonoma Trasmissione, con propri fregi e le tradizionali mostrine blu elettrico, contornate dal rosso cremisi. Questo avvenne come conseguenza del largo utilizzo di tali mezzi e l'ampliamento delle competenze affidate ai trasmettitori durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Ripercorrendo la storia a ritroso, le trasmissioni affondano tuttavia le proprie radici in un passato ben più remoto. Sin dai tempi antichi, infatti, l'umanità ha avuto la necessità di comunicare a distanza. Tale esigenza risultava ancora più importante nel corso di azioni belliche, quando ordini e notizie dovevano essere scambiati il più rapidamente possibile, cercando di superare celermente le linee del fronte. In quest'ambito, il primo mezzo utilizzato fu il fuoco notturno, che si perfezionò e progredì successivamente con la stazione a fiaccola romana usata da Giulio Cesare nella campagna contro i Galli e con la torre di segnalazione romana di Enea, oggi assunta come simbolo dell'arma delle trasmissioni. Nel corso della storia, una tappa decisiva per le trasmissioni fu segnata certamente dall'invenzione del telefono e del telegrafo nella prima metà dell'Ottocento, seguita da quella della radio nel 1984 ad opera di Guglielmo Marconi. Nel corso della cerimonia solenne sono stati resi gli onori alle bandiere di guerra dell'arma delle trasmissioni, del terzo reggimento trasmissioni e al gonfalone del comune di Roma. Sono stati altresì consegnati 67 guidoncini di tutte le compagnie trasmissioni, con la numerazione storica loro assegnata, a seguito di uno studio elaborato dal Comando Trasmissioni e dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Il 70° anniversario è un evento da consegnare a futura memoria. Una cartolina postale con annullo filatelico è stata realizzata con un'immagine simbolica ad evocare l'evoluzione delle trasmissioni attraverso il tempo, quale testimonianza per le nuove generazioni. Una interessante mostra storica era stata allestita nel piazzale della caserma Perotti, un'occasione unica per vedere reperti che hanno fatto la storia delle trasmissioni nel nostro paese. Ad anticipare le celebrazioni, il convegno dal titolo «Le trasmissioni, uomini e tecnologie a servizio del paese», alla presenza tra gli altri di Elettra Marconi, figlia di Guglielmo. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le peculiarità dell'arma ripercorrendone le tappe storiche più significative che hanno tracciato l'evoluzione delle radiocomunicazioni dell'esercito nelle due guerre mondiali. Oggi l'arma è articolata su due specialità: specialisti in telematica e in guerra elettronica. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.